Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buonasera a tutti e buona domenica da Gegè Telesforo, qui dal Groove Mastery Studio per la puntata numero 319 del nostro Soundcheck, prova del suono di Radio 24. Il via questa sera con un giovane talento americano, soltanto 23 anni, per Alexander Claffy. Avete mai sentito parlare di Alexander Claffy? Mi sa che qualche settimana fa ne abbiamo parlato insieme a Silvia Barba in una puntata del sabato. Ebbene, Alexander Claffy, giovane talento americano, nato a Filadelfia, svezzato dal papà e dalla mamma, anche loro musicisti, il papà pianista, la mamma cantante, si portavano Alexander Claffy da ragazzino sul palcoscenico, dove ha appreso la legge dello spettacolo. Alexander Claffy si appassiona al contrabbasso, lo studia anche con un veterano come Ron Carter, e poi nel 2011, quindi soltanto 5 anni fa, si sposta a New York e lì inizia a darsi da fare, a suonare nei club come fanno tutti i giovani musicisti. Frequenta il bravo pianista cantante Johnny O'Neill, che lo avvicina al songbook tradizionale americano, poi il batterista Jimmy Cobb e poi i giovani trombettisti, quelli rampanti come Wallace Rooney, e il talento Christian Scott, quello di Stretch Music, che lo introduce a Louis Marx, ovvero il patron della Rope Dope Records, casa discografica che distribuisce oggi il primo album di Alexander Claffy, intitolato semplicemente Claffy, e dal quale vi voglio far ascoltare una bellissima canzone, tanto per avere un inizio morbido questa sera qui su Radio 24 con il nostro soundcheck. Il brano si intitola Don't Let You Bring You Down, Alexander Claffy al soundcheck. Si intitola semplicemente Claffy, l'opera prima di Alexander Claffy, 23enne da Filadelfia, per la Rope Dope Records di New York. Non uno dei brani più rappresentativi di questo album, dove Alexander Claffy sfoga tutta la sua musicalità creando brani di diversa natura, arrangiamenti jazz ma anche qualcosa di più groove o melodico, come nel caso di questa composizione intitolata Don't Let You Bring You Down. Eccolo qui Alexander Claffy, lancia il testimone a un altro giovane talento giapponese, nata nel 1979, vi sto parlando di Hiromi, che da anni approda anche nel nostro paese in concerto, affiancata da un meraviglioso musicista come il bassista elettrico Anthony Jackson. Protagonista anche in questa esperienza discografica recentissima, si intitola Spark, il nuovo album di Hiromi, che coinvolge, per avere una ritmica potentissima, e affianca così alla perizia di Anthony Jackson l'energia di un batterista come Simon Phillips, che noi abbiamo apprezzato negli anni 80-90 in contesti senz'altro più rock, come Toto, gli Who, David Gilmour, Jack Bruce. E comunque un veterano dietro ai tamburi, Simon Phillips, protagonista in questo album intitolato Spark, lo ripeto, con Hiromi. Il brano che ho scelto per voi si intitola Indulgence. Questo è il soundcheck di Radio 24. Sound check. Il suono della musica. Just E abbiamo aperto la seconda parte del nostro soundcheck qui su Radio 24 con il talento straripante della bellissima Esperanza Spalding, contrabbassista, bassista elettrica, polistrumentista, producer ma anche vincitrice del Grammy Award qualche anno fa come nuovo talento, ma anche con Radio City Music Society, probabilmente uno degli album più belli per me, perché dopo aver ascoltato Emily's The Evolution, questo è il titolo del nuovo lavoro di Esperanza Spalding sono rimasto un po' deluso. Certamente viene fuori il talento, come dicevo, straripante di Esperanza Spalding, composizioni molto complesse, sonorità molto rock in questo nuovo lavoro, però poi alla fine, dopo aver ascoltato l'album, non resta tanto, anche se questo brano non era niente male. Si intitolava Unconditional Love di Esperanza Spalding qui al Soundcheck. E altra band invece che si è fatta notare negli ultimi anni con una produzione infinita di musica, molto presenti, molto attivi anche sul web per proporre e promuovere i loro lavori, ovvero gli Snarky Puppy, guidati da una mente geniale, quella del bassista elettrico Michael League, che ci ha dato la possibilità di conoscere, attraverso il lavoro della Ground Up, che è l'etichetta legata agli Snarky Puppy, anche il talento di altri musicisti che appartengono a questo organico, come il pianista tastierista Bill Lawrence o il bravissimo organista Corey Henry, l'energia del batterista Robert Spot Searight. E qui gli Snarky Puppy, in questo secondo lavoro live intitolato Family Dinner 2, incontrano un ragazzino inglese che stiamo aspettando discograficamente. Fra pochissimo verrà pubblicato per Quincy Jones il lavoro di Jacob Collier. Con gli Snarky Puppy il brano si intitola Don't You Know. Sentite che meraviglia. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. And we'll go out and play. Beh, il brano lo trovo delicatissimo, bellissimo, si intitola Little Person, brano scritto da un veterano come John Bryans, ma nell'interpretazione di Camila Mesa, dal nuovo album intitolato Traces. Io mi auguro che la prossima estate qualche promoter, qualche festival jazz italiano ci dia la possibilità di poter apprezzare dal vivo il talento di questa vocalist chitarrista cilena che a New York in questo momento sta spopolando e soprattutto si sta facendo apprezzare con questo ultimo lavoro. Lo ripeto, si intitola Traces, Camila Mesa, affiancata poi da musicisti eccellenti come Shai Maestro al pianoforte, Rhodes Fender al Wurlitzer, c'è Matt Penman al contrabbasso, il bravissimo Kendry Scott alla batteria e poi partecipazioni speciali come quella di Bashiri Johnson alle percussioni, ma anche il nostro amico Sacha Alvasandani, che proprio qualche settimana fa ci ha raccontato del talento di Camila Mesa, visto che sono anche molto amici. Allora chiudiamo questo appuntamento con il nostro soundcheck con un altro brano, quello proprio che apre Traces, brano intitolato Paravolar, scritto da Camila Mesa. In questo brano apprezzerete il talento di Camila Mesa come chitarrista, e molto spesso doppia con la sua voce i suoi assoli, così come faceva e come fa George Benson. A tutti voi buona serata, buona settimana e buona musica da Gigi Telesforo con Camila Mesa.